Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Colonia è un pezzo di una guerra sul corpo delle donne. E quella guerra sul corpo delle donne si conduce nelle case, nelle strade, nelle città, si conduce sistematicamente e mi spiace, lo dico con il grande affetto che ho per gli uomini, non è vero che ci sono uomini senza responsabilità che possono scagliare la prima pietra e uomini di altri paesi che invece hanno tutte le responsabilità. C'è un tema che si chiama violenza sui corpi delle donne che continua a essere un tratto di dominio e di incapacità di riconoscimento del rispetto. E la religione, perché così dico anche la terza parte faticosa di questo elemento, e la religione è un pezzo di questa perenne idea che le donne devono essere sottomesse. E allora sì, lo dico, c'è un problema di secolarizzazione della nostra religione e delle altre religioni. E chiunque mi dica che la Sharia è democrazia troverà nelle donne la principale opposizione, perché quando la religione si fa Stato, per le donne iniziano le sofferenze. E questo era il pensiero anche della leader CGIL Susanna Camusso sui fatti di Colonia. Potete commentare questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, mentre io poi vi racconterò tutta la giornata come sempre a fine giornata, scusate il bisticcio di parole, vi racconto sempre le notizie dal mondo e dall'Italia, un quadro completo, esauriente di tutte le cose più importanti, naturalmente poi alcuni temi trattati insieme agli ospiti per capire qualcosa di più. Dicevo, questo è il pensiero di Susanna Camusso sui fatti di Colonia. Continuiamo a tenerla piuttosto alta questa vicenda, perché continua a creare polemiche, anche a far fare riflessioni, a suscitare osservazioni sul perché, sul percorso, come è potuto succedere questa cosa e da cosa veramente dipenda e da cosa origine, anche perché c'è in mezzo tutta anche la questione dell'immigrazione, immigrazione maschile. 349-238-6666 per i vostri commenti, questo è il numero per i messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Ma l'argomento che vorrei principalmente sottoporvi questa sera è quello delle unioni civili. Ancora una volta si torna a discutere perché c'è stata quella che viene definita la controffensiva dei cattodem, cioè dei cattolici all'interno del PD, nel senso che le unioni civili stanno un po' spaccando il governo. Sapete, i due partiti, il grosso partito di maggioranza relativa al PD e poi c'è il nuovo centrodestra, Area Popolare, insomma, che non è d'accordo su questo disegno di legge Cirinnà. Però c'è una spaccatura anche all'interno dello stesso PD per quanto riguarda la stepchild adoption, cioè l'adozione all'interno di una coppia dello stesso sesso di un partner che non è biologicamente fatto un figlio o una figlia, l'adozione del figlio dell'altro. Quando ci sono due persone dello stesso sesso, se uno dei due biologicamente è padre o madre di un figlio, l'altro con la stepchild adoption lo adotta giuridicamente. C'è un emendamento quindi che presentano i cattolici del Partito Democratico, ne parleremo direttamente con la prima firmataria, che è la senatrice Di Giorgi. Se volete capire qualcosa di più su questa faccenda poco intricata e sicuramente molto travagliata, non perdete un solo attimo di Effetto Notte. E poi naturalmente ci sono tanti altri temi, andremo sugli attentati in Indonesia, perché proprio nel più grande paese musulmano questi attentati, e poi ci occuperemo anche delle candidature agli Oscar. Ma partiamo coi titoli. Gli attentati in Indonesia, l'ISIS rivendica gli attacchi in diversi punti a Jakarta, le vittime sono 7, secondo la polizia volevano fare come a Parigi. Un possibile nuovo Dieselgate, perquisizione in fabbrica alla Renault, l'azienda precisa nessuna frode ma le azioni vanno a picco. Unioni civili, spaccatura nel PD sulle adozioni, i cattodem propongono un emendamento, l'affido rafforzato, polemica su Gate che pubblica la lista dei contrari. Le molestie sessuali di massa a Colonia, sarà aumentata fino a 10.000 euro la ricompensa per chi fornirà agli investigatori indizi utili a rintracciare gli autori delle violenze e dei furti alle donne nella notte di Capodanno. L'omicidio della giovane americana a Firenze, confessa l'assassino di Ashley, un uomo senegalese, ci sarebbe stata una discussione dopo il sesso, non volevo uccidere, dice lui, secondo la procura l'ha strangolata. Sangue infetto, la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia a pagare ai cittadini infettati 10 milioni di euro di risarcimento. Lutto nel cinema, è morto a Roma a 80 anni l'attore Franco Citti, l'accattone di Pasolini, era malato da tempo. E per gli Oscar, tra i candidati c'è anche Ennio Morricone per le musiche del film di Tarantino. Partiamo quindi dagli attacchi in Indonesia, nella capitale Jakarta, che sono stati rivendicati dall'ISIS. Secondo la polizia, gli attentatori volevano fare come a Parigi. La rivendicazione è giunta poche ore dopo, firmata dall'ISIS, che con un linguaggio freddamente militare ha descritto l'azione terroristica che ha paralizzato per ore la capitale indonesiana Jakarta. Baru Naim, lui stesso indonesiano, da tempo in Siria col califfato, sarebbe la mente dietro l'azione pianificata per mesi e portata a termine nel cuore del paese con la maggiore popolazione musulmana al mondo. Misteriosamente, se i terroristi elencano 15 vittime, le autorità locali ne indicano almeno 7, meno della metà. Tra loro, oltre a 5 assalitori, anche 2 civili, un canadese e un indonesiano. Una ventina invece i feriti. Tutto si è svolto rapidamente, secondo le ricostruzioni. Almeno 6 esplosioni si sono registrate nella zona del distretto finanziario, colpendo un commissariato di polizia e un'area commerciale all'interno del quale si trovava un caffè della catena Starbucks. Alla confusione e al successivo scontro a fuoco, che ha incluso un assalto kamikaze proprio contro il commissariato, è seguita una fuga di alcuni terroristi in un teatro dove sono stati infine uccisi. Il presidente indonesiano Widodo ha condannato gli attacchi, che la polizia ha descritto come simili a quelli di Parigi. Nella strategia, l'ultimo grande attentato in Indonesia risaliva a 7 anni fa con le bombe in 2 alberghi di lusso. Indelebile resta invece la memoria degli attacchi di Bali che 14 anni fa uccisero 202 persone. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dall'Iraq arriva la notizia che 600 bambini yazidi sarebbero stati rapiti dall'ISIS nella provincia di Sinjar. Intanto Ankara, la Turchia, ha fatto sapere, dopo l'attentato di ieri, di aver bombardato le postazioni dei terroristi. Ci aggiorna Marco Barbonaia, il nostro Marco Barbonaia da Istanbul. Ciao Marco. Buonasera Roberta. Sì, l'artiglieria di Ankara avrebbe colpito 500 volte le postazioni dell'ISIS vicine ai suoi confini, sia in Iraq che in Siria, nelle ultime 48 ore, in risposta all'attentato di 2 giorni fa sul Tanamet. E quanto ha dichiarato oggi il primo ministro Ahmet Davutoğlu, che ha aggiunto: ogni attacco agli ospiti della Turchia verrà punito. Il ministro degli interni turco Efkan Ala ha sottolineato invece che la Turchia ha espulso 2.896 sospetti da 92 paesi diversi e negato l'ingresso a 35.700 persone. Questa è una risposta a chi riteneva che la Turchia non avesse fatto abbastanza per prevenire ciò che è accaduto, perlomeno la risposta fornita dal governo. Nel frattempo, però, forse tardi, tedesco, diciamo, forse tardi nel corso del tempo, però a questo punto è arrivata questa risposta. Bisogna anche poi verificare se tutto questo corrisponde, certo. Però questa è stata, diciamo, la risposta, ecco. Nel frattempo va detto comunque che il ministro degli interni tedesco, che è stato in visita 2 giorni fa ad Istanbul, ha dichiarato invece che non ci sono certezze rispetto all'identità del kamikaze, in aperta contraddizione con la versione di Ankara, che aveva identificato l'autore in un saudita proveniente dalla Siria. Per quanto riguarda l'altra notizia di cui parlavi, terribile, se confermata ovviamente, nella provincia di Sinjar, in Iraq, nell'Iraq settentrionale, sarebbero stati rapiti 600 bambini dall'ISIS, pare soprattutto gli yazidi, anche su questo non abbiamo conferme, e lo Stato Islamico li starebbe addestrando per usarli come kamikaze. Lo riferiscono le autorità curde locali, ci sarebbe però anche la testimonianza di un 12enne fuggito con un gruppo di 200 prigionieri. Aggiungo solo che, stando all'Osservatorio Siriano per i diritti umani, negli ultimi 4 mesi nella sola Siria ci sarebbero stati 29 attacchi suicidi compiuti da bambini kamikaze. Grazie Marco Barbonaia da Istanbul. E per spostarci invece in Germania, torniamo a parlare delle molestie sessuali di massa Colonia, vi dicevo, perché sarà aumentata fino a 10.000 euro la ricompensa per chi fornirà agli investigatori indizi utili a rintracciare gli autori delle violenze e dei furti alle donne nella notte di Capodanno. E tra l'altro quelle violenze, quelle aggressioni di Colonia iniziano a produrre degli effetti in Germania. Sapete che c'è un carnevale, che è uno dei più famosi del mondo, sicuramente della Germania, a Colonia, che dovrebbe esserci il 4 febbraio. Beh, alcune città intorno stanno cominciando a disdirlo questo carnevale. La città, per esempio, di Rheinberg, poco più di 30.000 abitanti nel nord Reno-Vestfalia, ha annullato la tradizionale sfilata di carri allegorici perché dicono gli organizzatori: non siamo in grado di assicurare le misure di sicurezza che sarebbero necessarie in quel momento. E poi il rischio invece di un nuovo Dieselgate. Anche la Renault viene accusata di trucchi nelle emissioni dei veicoli. L'azienda nega in extremis e recupera parzialmente le perdite. Anche per la Fiat Chrysler è stata una giornata difficile. Un vero e proprio terremoto quello che scuote in poche ore la casa automobilistica francese, al punto che dopo le timide rassicurazioni dei vertici dell'azienda e lo stesso governo a dover intervenire, la frode sui motori di Renault non esiste, garantisce il ministro dell'ambiente francese Ségolène Royal. Gli azionisti e i dipendenti possono stare tranquilli. Vi è sì uno sforamento delle norme su CO2 ed ossido di azoto, aggiunge la Royal, ma nessun trucco. A scatenare i timori di un nuovo Dieselgate stile Volkswagen, la notizia rilanciata dalla stampa francese su fonti sindacali di perquisizioni degli agenti transalpini nel sito di Lardì, che realizza prove sulle emissioni dei veicoli. Notizia che in poche ore si abbatte sui titoli Renault, ma anche di tutto il settore auto del vecchio continente, spinti al ribasso anche dal calo del mercato russo. Il gruppo francese chiude a Parigi così con meno 10,2%, dimezzando di fatto le perdite di metà giornata. Male a Piazza Affari FCA meno 7,9% e Ferrari meno 4,62%. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore. A fine giornata il titolo FCA lascia sul terreno quasi 8 punti percentuali. Sospeso e riammesso più volte, non è riuscito a risalire nemmeno dopo il comunicato emesso dalla casa automobilistica. Con una nota, Fiat Chrysler Automobiles ha risposto alle indiscrezioni di stampa che la vedrebbero coinvolta in una causa promossa da una catena di concessionari americana. Al centro dell'azione legale, l'offerta di incentivi da parte di FCA per registrare le vendite in un mese precedente a quello effettivo. Sebbene l'atto di citazione non sia ancora stato notificato, specifica FCA US, la società si dice convinta del fatto che la causa sia infondata. Tanto più che, si sottolinea nella nota, la causa è stata promossa dall'avvocato interno della catena proprio nel momento in cui FCA discuteva della necessità che quest'ultima rispettasse i propri impegni. Resta il fatto che a Piazza Affari il titolo ha sofferto tutto il giorno, così come l'intero comparto, penalizzato dal dato relativo alle immatricolazioni in Russia, meno 46% nel 2015, il terzo anno consecutivo di calo, il peggiore. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. Siamo alla politica, con la spaccatura nel PD, vi dicevo, sulle adozioni. Cattodem propongono un emendamento, l'affido rafforzato al posto della stepchild adoption, polemica su Gaite che pubblica la lista dei contrari. Tra poco ne parleremo, vi dicevo, ampiamente con la senatrice PD Di Giorgi, e fa parte appunto di questi Cattodem che ha firmato questo emendamento, e con il deputato del PD Alessandro Zan. Voi siete, che ne pensate di questa, di questo disegno di legge Cirinna? Avete capito qualcosa? Siete favorevoli alla stepchild adoption e alle unioni civili? Poi ne parleremo per chiarire ancora una volta i termini, che abbiamo chiarito già tante volte. Però, sempre restando sulla politica, c'è anche il caso Quarto, ci sono dei nuovi sviluppi sul fronte giudiziario. Per me il caso è chiuso, aveva detto Grillo ieri. Il movimento vuole voltare pagina su Quarto, ma ci sono nuovi sviluppi, in particolare sul fronte giudiziario. Oggi si apre ufficialmente l'indagine sugli abusi edilizi realizzati nella casa dove il sindaco Rosa Capuozzo vive con il marito Lorenzo Baiano. Questi risulta infatti indagato per falso e violazione delle norme edilizie. Una questione non di poco conto, perché proprio l'abuso, secondo gli inquirenti, avrebbe rappresentato l'elemento di ricatto esercitato nei confronti del sindaco dall'ex consigliere De Robbio per ottenere incarichi e nomini di persone da lui segnalate. Oggi Rosa Capuozzo è stata sentita per la quinta volta come testimone. Il sindaco aveva spiegato di non aver denunciato i ricatti per tutelare l'amministrazione. Una ricostruzione che evidentemente non ha convinto gli inquirenti. La Capuozzo, espulsa dal movimento, va comunque avanti, ma in comune cominciano già le prime defezioni. Si dimette l'assessore all'urbanistica Tullio Ciarlone e il capogruppo del movimento in consiglio comunale Alessandro Nicolais. Ma intanto per i vertici del movimento la parola d'ordine è andare avanti e giocare d'attacco. Per Roberto Fico il Movimento 5 Stelle a Quarto non esiste più, mentre Grillo lancia un nuovo affondo al PD, è il partito preferito della Camorra. Qualcuno avvisi Saviano. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca. Confessato l'assassino della 35enne americana strangolata nella sua casa a Firenze, un irregolare senegalese di 27 anni. Fra i due ci sarebbe stato un rapporto sessuale consenziente, nessun gioco erotico come invece si ipotizzava. Poi lei, questa è la ricostruzione di lui, lo caccia bruscamente, lui reagisce, l'ho spinta e l'ho sbattuta per terra, ha sbattuto la testa, diceva, per inquirenti, l'ha uccisa con un laccio, una catenina, l'ha strangolata. Decisivi i testimoni e l'immagine delle telecamere di videosorveglianza e anche il DNA. E adesso parliamo della vicenda del sangue infetto. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato lo Stato italiano a risarcire 371 cittadini infettati da vari virus, AIDS, epatite B e epatite C, attraverso le trasfusioni di sangue infetto avvenute, se vi ricordate, negli anni 80-90, con un risarcimento, questa è la condanna della Corte Europea, un risarcimento che in totale supera i 10 milioni di euro. La sentenza di Strasburgo definisce però adeguata la somma di 100.000 euro prevista come forfettaria per ogni persona danneggiata, stabilita dalla legge 114 del 2014. Voluta dal governo Renzi. Una decisione questa che però lascia insoddisfatta l'associazione Politrasfusi Italiani. E siamo al cinema, prima di tutto con un lutto, perché è morto questa sera a Roma l'attore Franco Citti, 80 anni, malato da tempo. A dare la notizia è stato Ninetto Davoli, scoperto da Pasolini. Citti, che lo volle protagonista di Accattone nel 1961. Citti da allora diventò un volto simbolo del suo cinema, recitando anche in Mamma Roma, Porcile e il Decameron. E per gli Oscar tra i candidati ci sono state le candidature, anche Ennio Morricone per le musiche del film di Tarantino. Poi ne parleremo. Mentre la notizia extra è sull'Alzheimer, una scoperta. Riconoscere la malattia di Alzheimer prima ancora che compaiano i sintomi, semplicemente dall'odore delle urine, a indicarlo uno studio guidato da Bruce Kimball del centro di ricerca americano Monell sui topi. Il lavoro pubblicato dalla rivista Scientist Reports potrebbe aprire la strada alla diagnosi precoce della malattia anche nell'uomo. L'Alzheimer è la più comune forma di demenza degenerativa nel mondo. In Italia si stima che colpisca oltre 1 milione di persone, e questo chissà che possa essere uno spiraglio. Prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, volevo intanto guardare i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, questo è il numero per gli sms, sempre sulle unioni civili, ma anche, se volete, su altri argomenti centrati e centrali. Massimo, per esempio, sul commento della leader CGIL Camusso a proposito dei fatti di Colonia che ho fatto sentire all'inizio, dice: Camusso ha ragione, poco da dire. Uno dei maggiori elementi di debolezza della cultura araba è la discriminazione delle donne, e anche in Occidente le molte sacche di discriminazione residue vanno estinte, dice Massimo. Invece sulla pagina Facebook, a proposito delle unioni civili, Cristiano dice: nessuna riserva né sul legittimare le convivenze di fatto, né sull'adozione del figlio del coniuge, né sulla reversibilità della pensione. Credo siano orizzonti inevitabili da affrontare. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendo dai vostri messaggi prima di cominciare a approfondire gli argomenti con i vari ospiti. Tra poco affronteremo la questione delle unioni civili, in particolare il delicato tema della stepchild adoption che tanto agita la politica e il Parlamento italiano e lo stesso governo. Ne parleremo tra pochissimo con gli ospiti. Intanto continuo con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete continuare giorno e notte a mettere le vostre opinioni, oppure gli sms al 349-238-6666. Per esempio Maurizio dice: molti si scandalizzano dicendo che un bimbo ha bisogno di una mamma e un papà, ma la storia del genere umano è piena di bambini non riconosciuti dai padri o abbandonati dalle madri appena nati, quindi credo che sia meglio avere due mamme o due papà piuttosto che il nulla. Voi cosa ne pensate, ascoltatrici e ascoltatori? E poi c'è invece Stefano che scrive: no, stepchild adoption nella maniera più assoluta, i figli non sono un diritto. Le vostre opinioni, pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Poi ne parleremo, vi dicevo, tra pochissimo con gli ospiti. Vi ricordo, se avete acceso adesso la radio, invece che puntualmente alle 21 su Effetto Notte, le notizie più importanti. Renault nel mirino, l'azienda Renault per le emissioni crolla in borsa il titolo, tensioni anche su Fiat Chrysler, il settore dell'auto affossa i mercati per il nuovo rischio di un possibile dieselgate. E poi le unioni civili, lite nel PD sulle adozioni, si parla di un'offensiva a Cattodem, adesso ce ne occupiamo. L'ISIS che attacca Giacarta, diversi attacchi terroristici in vari punti della città, volevano imitare Parigi, dicono le forze dell'ordine. E poi, per quanto riguarda il delitto di Firenze, confessa l'assassino di Ashley, una discussione dopo il sesso. Il senegalese di 27 anni dice: non volevo uccidere, ma secondo la procura l'ha strangolata. E poi l'Unione Europea che cambia strada sui migranti, ci saranno nuove regole nel 2016. Italia condannata per il sangue infetto, paghi 10 milioni, questa è la sentenza della Corte di Strasburgo, bisogna rimborsare 350 persone contagiate. Poi l'Oscar che suona in italiano, nomination per Morricone. E siamo dunque alla battaglia sulle unioni civili, è il caso di dire, visto che sul tema si va avanti e indietro, insomma, da parecchi anni. E questo, a questo proposito parliamo in particolare del disegno di legge Cirinnà, travagliatissimo anche in questo caso, bisogna dire, a sua volta, perché slitta da mesi, adesso slittato di 2 giorni in realtà, perché doveva essere discusso in aula al Senato il 26 gennaio, invece è slittato al 28. È una battaglia tra progressisti e conservatori, ma anche proprio all'interno del PD. La notizia infatti di oggi è che i cattolici, il fronte cattolico del Partito Democratico, ha deciso di presentare un emendamento, quindi una modifica a questo disegno di legge Cirinnà sulla stepchild adoption che tanto fa discutere. Ne parliamo innanzitutto con Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico. Buonasera, onorevole Zan. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, tra poco le farò sentire la senatrice Di Giorgi, che ho sentito poco fa prima di iniziare la trasmissione, però intanto vuole spiegare con estrema chiarezza, in modo inequivocabile, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ai quali già l'abbiamo chiarito tante volte, ma in cosa consiste la stepchild adoption? Sì, un termine inglese che tradotto significa l'adozione del figliastro, che insomma è un termine un po' brutto, insomma, ma per dire che stiamo parlando di situazioni familiari dove un bambino vive già con due genitori dello stesso sesso, vive quotidianamente, viene accompagnato a scuola, viene amato, viene allevato, viene cresciuto, solo che uno dei due genitori non è un genitore legittimo e dunque al di là dei diritti, quindi biologico, può discutere, esatto. Il problema è quello dei doveri, perché essendo solo il genitore biologico, il genitore a tutti gli effetti, legittimato, in caso di difficoltà, di morte, di questo, il bambino si ritroverebbe senza nessun genitore e dunque il genitore, l'altro genitore, quello sociale, diciamo, che vive con questo bambino tutti i giorni e che per il bambino è un genitore a tutti gli effetti, non avrebbe nessun tipo di riconoscimento, dunque nessun diritto nei confronti di questo bambino, ma soprattutto la possibilità di assumersi dei doveri, perché non dimentichiamo che quando si è genitori si hanno delle responsabilità e si hanno dei doveri nei confronti del minore. Dunque, siccome la stepchild adoption c'è già per le coppie eterosessuali sposate, la mediazione, diciamo, rispetto alle adozioni, quelle più tradizionali, è stata quella di introdurre anche per le coppie unite civilmente, quando ci saranno le unioni civili, laddove ci sia un bambino che vive in una famiglia omogenitoriale, la possibilità che questo bambino abbia gli stessi diritti di tutti gli altri bambini, cioè avere due genitori senza ricorrere ad istituti, a supervisioni del magistrato, piuttosto che una vita fatta di appunto di difficoltà, di sofferenze e un travaglio anche giudiziario che ovviamente un bambino non merita, soprattutto se vive in una famiglia che lo accoglie e gli vuole bene. Onorevole Zan, adesso io le faccio sentire, le chiedo di avere un po' di pazienza perché è stato un lungo intervento quello della senatrice Di Giorgi, perché la notizia di oggi riguardava appunto i cosiddetti cattodem per questo emendamento, no? I senatori cattolici del PD Stefano Lepri, Rosa Maria Di Giorgi e che sentiamo tra poco Emma Fattorini hanno lanciato questa nuova proposta di mediazione per superare l'impasse della stepchild adoption e passare a questo affido rafforzato. Sentiamola. Senatrice Rosa Maria Di Giorgi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la battaglia, si diceva, battaglia o discussione anche all'interno del PD sull'unione civile, questa è la cosa più peculiare, diciamo. Leggevamo che i senatori cattolici del PD, Stefano Lepri, Rosa Maria Di Giorgi, Emma Fattorini, lanciano una nuova proposta di mediazione e venite definiti cattodem, anche malpancisti. Lei ha il mal di pancia, senatrice Di Giorgi? Assolutamente no, e anche la definizione cattodem mi sta molto molto stretta, perché questa non è una partita che si gioca tra cattolici e non, ma come ormai si capisce la questione dell'adozione è molto trasversale e quindi sono sia laici che cattolici che in questo momento non condividono di introdurre l'adozione del figlio del partner in questo provvedimento, che è il provvedimento che invece riguarda le unioni civili e che è una grande iniziativa, una bellissima legge che finalmente potremo avere nel nostro paese. Quindi la vostra è una proposta di modifica, questo documento, sì, di voi senatori del Partito Democratico, una proposta per modificare l'articolo 5 sulla stepchild adoption, si chiama il vostro affido rafforzato. In cosa consiste esattamente? Perché io ho letto un po' la nota, letta così secondo me si capisce ben poco, io poi ci ho riflettuto molto e credo di aver capito cosa significhi, ce lo spiega lei. Diciamo che invece che prevedere l'adozione, che poi secondo noi aprirebbe il fronte dell'utero in affitto, della maternità surrogata. Noi pensiamo di dare a tutti coloro che hanno intenzione di svolgere la funzione di genitore, che sono compagni di qualcuno che ha un bambino, riteniamo di poter dare loro la possibilità di fare questo attraverso un nuovo istituto che si chiama affido rafforzato, ossia noi vogliamo che si possano svolgere tutte le funzioni nei confronti di questo bambino, dall'accompagnare a scuola, all'ospedale, tutto quello che un genitore può fare. A 18 anni questo affido, se il minore, se il bambino, il ragazzo a quel punto lo vorrà, potrà trasformarsi in adozione, e quindi avremo dato tutte le opportunità al genitore di svolgere, alla persona, al compagno, diciamo, di colui che ha il figlio, di poter svolgere il suo ruolo di genitore a tutti gli effetti. Non c'è semplicemente la possibilità dell'adozione. L'adozione può arrivare a 18 anni su richiesta del ragazzo. Questo è. Però mi faccio un esempio, senatrice Di Giorgi: se due donne si mettono insieme e poi una delle due rimane incinta, e vedrà lei come rimane incinta, perché qui stiamo parlando anche di una differenza in realtà che c'è tra due coppie, una di uomini e una di donne, perché le donne si fanno da sei figli alla fine, non molto hanno bisogno. Diverso tra uomini e donne, come lei capisce, perché un uomo, per avere un bambino, è evidente che deve ricorrere alla maternità surrogata, perché non importa che spenda parole su questo, non si può avere un bambino in altro modo. E per una donna naturalmente è diverso, perché la donna può rimanere incinta evidentemente. Non c'è la figura paterna, ecco, quindi c'è soltanto due mamme. Il bambino. Quindi due mamme, se queste donne che si mettono insieme non hanno un figlio, una delle due a un certo punto ha una gravidanza, l'altra ha questo affido rafforzato? La risposta è sì, assolutamente questo affido rafforzato. Quindi da un punto di vista molto pratico, senatrice Di Giorgi, allora quindi la differenza con la stepchild adoption, esattamente per far capire chi ci ascolta? Sì, diciamo che se questo bambino c'è, e quindi il bambino, di questo bambino si può occupare sia il padre o la madre naturale, in coppie diverse naturalmente, e questo bambino, per quanto riguarda la legge attualmente in discussione, può essere adottato dal partner. Per quanto riguarda la proposta che facciamo noi, e che ormai ha già l'adesione, perché era già stata presentata anche in commissione, ha già l'adesione di una trentina di senatori del PD, che ora insomma stanno crescendo, devo dire, in questi giorni, oltre agli altri insomma che appoggeranno questo emendamento. Ecco, per quanto ci riguarda, noi invece riteniamo che sia più utile per il bambino avere un essere affidato. Senta, però Area Popolare, perché voi state cercando questa mediazione anche col nuovo centrodestra, no? Il dato politico è questo, sì, noi cerchiamo con questa modalità, anche oltre al nostro convincimento naturalmente, di riuscire a portare avanti il provvedimento che vogliamo ovviamente votare, perché noi siamo del PD e sta nel nostro programma, e quindi vogliamo votare questo provvedimento. Noi vorremmo che anche Area Popolare, con questo aggiustamento e con questa soluzione, potesse avere meno difficoltà a votare un provvedimento che così potrebbe essere con tranquillità rimanere all'interno del recinto della maggioranza. Però senatrice Di Giorgi, Area Popolare, con attraverso Twitter i senatori Maurizio Sacconi e Nicola D'Ascola hanno risposto nel tardissimo pomeriggio in serata. Sono loro due hanno scritto: hanno affido imbastardito scontenta tutti, ottimo lavoro, ironicamente hanno scritto. No, io credo che questa sia una posizione personale dei due senatori, con cui naturalmente abbiamo parlato, e quindi è la loro posizione personale più che legittima. Credo che all'interno, lei, le posso citare Cicchitto, le posso citare anche il senatore Schifani, capogruppo peraltro di AP, di Alleanza Popolare all'interno del Senato, che hanno una posizione ben diversa e che hanno guardato con grandissima attenzione, stanno guardando con attenzione la nostra proposta. Io però le dico una cosa: io credo che sia necessario che tutti rinuncino a qualcosa. Io non mi sono innamorata di niente, quindi non mi innamoro né dell'emendamento che propongo, naturalmente nemmeno della stepchild, come credo che non si debbano innamorare della propria proposta nessuno dei senatori. Noi, se facciamo politica, dobbiamo trovare la soluzione che accontenti al massimo le sensibilità e, mi scusi, anche che tenga anche un po' conto di quello che è il sentire del paese. Siccome tutti vogliamo, noi perlomeno sicuramente vogliamo averla questa legge sulle unioni civili, proviamo ad averla all'interno della maggioranza, perché non credo che il Movimento 5 Stelle poi alla fine, nonostante alcune dichiarazioni, possa essere affidabile e quindi ci possa consentire di portare a casa il provvedimento. Senatrice Di Giorgi, per chiudere io le faccio sentire che cosa ha detto il ministro Alfano poco fa alla mia collega Raffaella Calandra su questo tema, sentiamo. La cosa che non capisco e non condivido è perché questo giusto riconoscimento di diritti di singoli soggetti in coppie anche dello stesso sesso poi sia finito per diventare un ragionamento tutto fondato su che cosa? L'adottabilità dei figli. Per me la cosa migliore, il tema delle adozioni, resti fuori. Quindi NCD si oppone? Se il tema di legge Cirinna resta una sorta di fotocopia del matrimonio, noi non possiamo votare di sì. Noi diciamo di sì a nuovi diritti e più forti diritti per le coppie, diciamo di no alla equiparazione tra unione civile e matrimonio, diciamo di no all'adozione dei bambini da parte di persone dello stesso sesso, perché ogni bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma. Quindi un doppio no in realtà, senatrice Di Giorgi, sulla step child adoption, diciamo, ma anche che... paragonarlo al matrimonio, dice Alfano. Di fatto, ma non è equiparato al matrimonio, perché all'inizio la prima versione del testo Cirinna effettivamente equiparava al matrimonio. Invece qui c'è già stato un grande lavoro che abbiamo fatto nelle settimane, nei mesi scorsi, e quindi su questo non c'è più alcun problema. Nel senso, ecco, così dice Alessandro Zanna, così dice la senatrice Di Giorgi, ha sentito bene un po' tutto il discorso. In realtà quindi la mediazione non sta solo sulla stepchild adoption, ma il nuovo centrodestra che con voi al governo dice anche questa comparazione al matrimonio. Lo stesso dice Berlusconi, Forza Italia ieri in una riunione ha deciso che voterà contro il disegno di legge Cirinna, non solo sulla stepchild adoption ma anche perché dice è un matrimonio sotto falso nome. Quindi a questo punto il Movimento 5 Stelle, dice la senatrice Di Giorgi, che non è affidabile, che farete? Mi pare che qui ogni giorno ci sia chi cambia posizione. Avevo sentito Berlusconi che era favorevole al testo delle unioni civili, ma come era favorevole anche alla riforma costituzionale, e poi improvvisamente ha cambiato posizione. Ma restando nel tema, diciamo che il testo Cirinna, che comprende unioni civili e stepchild adoption, è già il frutto di una mediazione, perché in tutta Europa noi abbiamo provvedimenti molto più avanzati, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, potrei continuare con l'elenco, cioè il matrimonio e l'adozione. Al congresso del PD è prevalsa, diciamo, una linea di mediazione che appunto si è impegnata su unioni civili e stepchild adoption, che già di per sé è una forte mediazione, perché se poi guardiamo la sentenza del Tribunale dei diritti umani che ha condannato l'Italia per non aver ancora approvato una legge sulle unioni civili per una palese violazione dei diritti umani, e se guardiamo tutta la giurisprudenza italiana e europea sul tema delle adozioni, vediamo che la giurisprudenza è molto più avanti rispetto a questo testo. Per quindi l'affido rafforzato non la convince, insomma. Ma l'affido rafforzato io non ho ancora capito che cosa sia, francamente, né non l'ho ancora capito dalle spiegazioni della senatrice Di Giorgi, anche perché in tutto il mondo esiste la stepchild adoption, e non dimentichiamo che esiste anche in Italia, nel senso che per le coppie eterosessuali sposate esiste la possibilità per il coniuge, qualora il bambino abbia solo un genitore e questo genitore si sposa con un'altra persona, questa persona può, una volta sposata, chiedere al giudice di poter adottare questo bambino. Dice Alessandra, ma il figlio già esistente dell'uno o dell'altro della coppia gay non ha già il suo secondo genitore effettivo, e anche nella coppia eterosessuale, perché c'è bisogno di adozione? Sì, esiste già, è un genitore di fatto, ma è un genitore senza diritti e doveri, e dunque in caso di difficoltà e di bisogno, noi sappiamo che i diritti servono quando non quando si sta bene, quando va tutto bene, no? Ma quando ci sono delle difficoltà, delle necessità. Ecco, in questo caso la stepchild adoption è una garanzia per il bambino nel caso appunto il genitore biologico venisse a mancare o fosse incapace di assumersi i doveri di genitore, ecco che l'altro genitore assume dei doveri, dei diritti nei confronti di questo bambino, ma questo vale anche per le scelte scolastiche del bambino. L'altro genitore appunto accompagna quotidianamente il bambino a scuola, ma non può prendersi non può assumere delle scelte sull'educazione, sulla mensa, sul dopo scuola, su qualsiasi cosa, perché non è nessuno per la legge. Onorevole Zanna, devo chiudere chiedendole solo come andrà a finire secondo lei a questo punto, visto che si deve votare. Il testo arriva il 28 in aula? Come andrà a finire? Allora, il testo Cina è il testo del PD e di Matteo Renzi e dei ministri che lavorano su questo. Al Senato terremo questo testo, si chiederà a tutti i deputati e i senatori del Partito Democratico di assumersi una responsabilità su questo. C'è la libertà di coscienza, ma non significa che tutti siano liberi di fare ciò che vogliono. Il Partito Democratico chiederà a tutti i senatori di votare quel testo. E secondo me, anche se i numeri sono stretti al Senato, ce la possiamo fare. Benissimo, siamo proprio curiosi di vedere come va a finire. Grazie onorevole Alessandro Zan, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro, buona continuazione. Presto, ricreazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano, sempre con voi, tanti vostri messaggi, sia sulla Step Child Adoption, questa spaccatura che c'è anche all'interno del PD, come abbiamo sentito poco fa in questa lunga chiacchierata con il deputato PD Alessandro Zan, ma anche con la senatrice PD che fa parte dei Cattodep, anche se ha detto mi sento un po' strana, stretta in questa definizione, che con altri, circa una trentina, poco più di una trentina, sempre all'interno del PD, cattolici, insomma, hanno proposto questo emendamento, anziché la stepchild adoption, quindi l'adozione dentro una coppia del figlio dell'altro, il figlio biologico dell'altro, un affido rafforzato. Se anche lo stesso onorevole Zan diceva non mi è comunque chiaro, la senatrice ha cercato comunque di spiegarlo. Vedo i vostri messaggi, alcuni dubbi, alcuni che dicono che sono palesemente contrari comunque a questo aspetto del disegno di legge Cirinnà, quindi della stepchild adoption, e chi invece dice che non ha nessuna riserva a legittimare le convivenze di fatto nell'adozione del figlio. Vedo anche che tornate sul commento di Susanna Camusso, leader della CGIL, sui fatti di Colonia. Vedo però più uomini che sono d'accordo su questo aspetto. Adesso vediamo se lo ritrovo. No, questa Doris è una donna, dice: brava Camusso, finalmente si parla della colpa della religione e della necessità di secolarizzazione a proposito dell'ideologia di sottomissione delle donne. Avanti sulla strada della laicità, basta interferenze delle varie religioni sulla legge civile. Poi adesso vediamo se ritrovo invece quegli altri ascoltatori che avevo visto a proposito appunto delle parole della Camusso. Maurizio da Udine dice: vi chiedo, accanto alle donne di Colonia non c'era nessun uomo, e c'erano anche i poliziotti, ma a quanto pare, insomma, sapete che sicuramente, visto che è stato anche dimesso, è stato fatto dimettere il capo della polizia di Colonia, hanno le loro responsabilità. Niente, non riesco a ritrovare gli altri due messaggi di uomini che si dicevano d'accordo con le riflessioni della Camusso. Mentre qualcun altro dice: stepchild adoption sì, perché in Italia vanno fatte sempre cose complicate, non inventiamo nuovi istituti, usiamo e ampliamo gli strumenti che già esistono, scrive un'altra ascoltatrice o ascoltatore. Vi ricordo le notizie più importanti e poi tra poco c'è l'aggiornamento per la viabilità. Gli attentati in Indonesia, l'ISIS rivendica gli attacchi in diversi punti a Jakarta, nella capitale le vittime sono 7, secondo la polizia volevano fare come a Parigi. Un possibile nuovo Dieselgate, perquisizioni in fabbrica, la Renault, l'azienda precisa nessuna frode ma le azioni vanno a picco. Unioni civili, spaccatura nel PD sulle adozioni, ne abbiamo parlato, i Cattodem propongono un emendamento, l'affido rafforzato, polemica su Gate che pubblica la lista dei contrari. Le molestie sessuali di massa a Colonia, sarà aumentata fino a 10.000 euro la ricompensa per chi fornisce agli investigatori indizi utili a rintracciare gli autori delle violenze alle donne. L'omicidio della giovane americana a Firenze, confessa l'assassino di Ashley, un uomo senegalese, ci sarebbe stata una discussione dopo il sesso, non volevo uccidere, dice lui, ma secondo la procura l'ha strangolata. Sangue infetto, la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia a pagare ai cittadini infettati 10 milioni di euro di risarcimento. Lutto nel cinema, è morto a Roma a 80 anni l'attore Franco Citti, l'accattone di Pasolini, era malato da tempo. E per gli Oscar, di cui parleremo dopo, tra i candidati c'è anche Ennio Morricone per le musiche del film di Tarantino. Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Sarebbe altrettanto bello sapere che ne pensano i figli prima di 18 anni dall'avere oltre che un genitore anche l'altro homosex, dice un ascoltatore o ascoltatrice che scrive al 349-238-6666. Poi continuate con le vostre riflessioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Lodi, Roberto dalla provincia di Lodi, quella sulla stepchild adoption è una scusa, in realtà si tratta semplicemente di omofobia, non ci sono altre motivazioni, dice evidentemente, per contrastare questa legge. Le notizie più importanti le avete sentite, appunto, sono questa spaccatura anche all'interno del PD sull'Unione Civili, la Renault che nel mirino per le emissioni, crolla il titolo in borsa e un po' tutto il settore auto affossa i mercati per il rischio di un nuovo Dieselgate, e poi anche gli attacchi naturalmente in Indonesia, a Jakarta, volevano coloro che hanno rivendicato la rivendicazione dell'ISIS imitare gli attacchi a Parigi. Europa 24. Per lo spazio europeo parliamo dell'Implementation Day, cioè l'attuazione dell'accordo sul nucleare iraniano, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, molto probabilmente questo fine settimana. Dunque le sanzioni economiche contro Teheran saranno tolte piuttosto presto, un momento che gli iraniani, soprattutto i ragazzi, i giovani, aspettano con molta ansia, perché significherà rientrare lentamente nel mercato internazionale per l'Iran. L'Unione Europea ha avuto un ruolo cruciale per questo passaggio, come ha spiegato l'onorevole Damiano Zoffoli, europarlamentare PD, membro della delegazione per le relazioni con l'Iran, e lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Giusto sottolineare che si tratta di un accordo storico, la Mogherini l'ha definito giustamente un segno di speranza per il mondo. È un accordo che arriva dopo 13 anni di trattative, siamo solo nella primo step, importante però che si arrivi, come sembra, fra pochi giorni ad una prima attuazione. La politica è, lo sappiamo bene, l'arte del possibile, l'accordo non è perfetto, ma è quello che si poteva ottenere. Bisogna sottolineare ancora una volta che quando l'Europa lavora unita, quando l'Europa c'è, quando esiste l'Europa, quando non esistono solo i singoli stati europei, positivo che si arrivi a quello che è un accordo storico. È un accordo storico ed è un accordo che avrà anche delle grandi ricadute anche a livello economico. Per l'Unione Europea la riapertura del mercato iraniano cosa significa? Significa sicuramente delle opportunità. Non dobbiamo dimenticare che l'Iran sarà il più grande mercato mondiale ad aprirsi al commercio internazionale dopo la caduta del muro di Berlino. Quindi una grande opportunità, 80 milioni di abitanti, 17 milioni solo a Teheran, che conosce bene chiaramente il Made in Italy, una fattispecie che apprezza e conosce i nostri prodotti. Sono poi altre difficoltà, perché ancora l'Iran rappresenta a dei punti interrogativi, è un paese ancora con una scarsa trasparenza dal punto di vista economico, dal punto di vista bancario, c'è un insufficiente rispetto dei diritti umani. Insomma, c'è molto da lavorare e quindi mai come ora la diplomazia europea avrà un ruolo centrale anche nella transizione iraniana. Beh, intanto è chiaro che l'Iran è fondamentale anche per cercare di risolvere il conflitto medio orientale, sicuramente se sappiamo che la radice di molti conflitti nasce in questa guerra civile all'interno del mondo islamico, sciiti e sunniti, se quelle sono le radici, le soluzioni non possono prescindere da un coinvolgimento dell'Iran anche nella lotta contro il terrorismo e quindi nel cercare di stabilizzare quel sistema che sta producendo poi come conseguenza tutte le migrazioni. Questo è uno dei punti cardini dell'accordo sul nucleare, perché noi sapevamo che entro un anno quelle armi erano a disposizione. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso guardiamo ancora i vostri messaggi prima di parlare di cinema tra pochissimo, per esempio ancora sulle osservazioni della leader della CGIL Susanna Camusso relative ai fatti di Colonia, che accusava, dice, gli uomini una cultura maschilista e macista che non c'è soltanto nella cultura musulmana, e accusava in parte anche le religioni, un po' tutte le religioni, di avere sempre un po' diciamo trasmesso questa ideologia della donna inferiore all'uomo. Aix, un altro uomo, dice: quella della Camusso mi sembra una giusta giusta riflessione, queste cavolo di religioni tutte, dice nella storia, hanno fatto solo che danni, o sbaglio forse? Questo al 349-238-6666, poi gli altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Alessandra dice invece sull'altro argomento: ma il figlio già esistente dell'uno o dell'altro della coppia gay non ha già il suo secondo genitore effettivo? Questo avevamo già dato la risposta. Claudio da Roma: per una volta sono completamente d'accordo con la Camusso, però già facciamo fatica da soli, l'immigrazione si sta rivelando un ostacolo ulteriore alla secolarizzazione auspicata. E sì, c'è anche il grande Ennio Morricone, che dopo il Golden Globe è in corsa per la colonna sonora di The Hateful Eight di Tarantino. Stiamo parlando delle candidature agli Oscar, ci illuminerà Marta Cagnola. Ciao Marta. Buonasera Roberta. Sì, oggi alle 14.30 ora italiana si sono svelate le carte, abbiamo tutte le nomination, gli Oscar arriveranno il 28 febbraio. Non mi sembra che intanto... siano state grandi sorprese. No, no, ma... grandi sorprese no, devo dire che sono tantissime le candidature per The Revenant e lo sapevamo che ne avrebbe prese quello con DiCaprio, tante, 12, no? Certo. Il re di Vivo. E speriamo che finalmente Oscar arrivi per lui, perché non ce la facciamo più con tutte le nomination e mai un premio per Leonardo DiCaprio. 10 candidature a Mad Max Fury Road, e questo non ce l'aspettavamo tutti. Poi ci sono, che è il seguito del vecchio Mad Max, no Marta? Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. E cos'era, anni 80 o 90? Anni 80 direi, ha un sacco di anni Mad Max, perché io mi ricordo che c'era quella vecchia colonna sonora con Tina Turner. Tina Turner, che, c'era insomma, anche lei che è una dei protagonisti. Il primo Mad Max direi che è del 79, e poi c'era stato quello appunto Oltre la sfera del tuono, metà anni 80, ti direi 85, non vorrei dirti una stupidaggine, ma dovrebbe essere più o meno 79-85. Vari anni fa, e adesso ritorna questa passione, si ritenta come spesso, no, di fare un seguito. Sì, è uscito a maggio in Italia, ce l'eravamo quasi dimenticato, invece 10 candidature, 7 per The Martian di Ridley Scott. Non tantissime candidature, io me ne aspettavo di più per ad esempio Carol. È stato molto bello quel film, devo dire, molto, sì, molto, sì, raffinato. Sì, candidate entrambe le attrici, candidate sia Cate Blanchett che Rooney Mara, ma non è candidato a miglior film, perché i migliori film sono sempre La Grande Revenant, Scommessa, naturalmente, no? Sì, ovviamente The Revenant, La Grande Scommessa, Il Ponte delle Spie, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, Sopravvissuto, Room e Il Caso Spotlight. In realtà molti di questi film, alcuni escono a febbraio, alcuni non hanno ancora una data d'uscita, quindi in Italia non ne abbiamo visti molti. Questo fine settimana escono Revenant, appunto quello con Leonardo DiCaprio, ed esce Creed, che è quello invece che ha portato alla candidatura come miglior attore non protagonista il grandissimo Sylvester Stallone, per il quale io farò un tifo indiavolato. Mi pare però che, come al solito, inevitabili, ci siano state polemiche anche rispetto a questi annunci per sempre, dice qualcuno, discriminazione nei confronti degli afroamericani e delle donne. Sì, soprattutto perché per quanto riguarda gli afroamericani, tutti gli attori candidati sono bianchi, non c'è nemmeno un afroamericano. Il presentatore della serata afroamericano sarà Chris Rock il 28 febbraio, ma non ci sono, non c'è, come dicono negli Stati Uniti, diversità, cioè non ci sono attori che siano di etnie diverse. In realtà, appunto, questi sono i candidati di quest'anno, probabilmente questi sono stati ritenuti migliori dall'Academy. È un discorso molto delicato, perché c'è qualcuno che comincia a dire: ah, allora ci vogliono delle quote. È un discorso delicatissimo, e si sa che negli Stati Uniti sono molto molto molto sensibili a questo tema. Politicamente corretti cercano di essere, sì, no? Sì. Se tu fai dei pronostici... Vabbè, che insomma, allora, però, no, pronostici no, sai perché? Perché io sbaglio sempre alla grande, non sono bravissima con i pronostici. Faccio il tifo per Leonardo DiCaprio, faccio il tifo per Sylvester Stallone. Tra le donne io faccio molto, davvero tanto il tifo per Charlotte Rampling, perché per lei in 45 sarebbe, no? Sì, 45 anni sarebbe un bellissimo coronamento. Tu l'hai visto quel film? L'ho visto e a me è piaciuto veramente tanto. È un film che a me è piaciuto tantissimo. A proposito di italiani, abbiamo citato Ennio Morricone. C'è qualcosina anche per Sorrentino, speravo in qualcosa di più, ma insomma è candidata la canzone come miglior canzone, quindi non colonna sonora ma come canzone originale, Simple Song Number 3, mentre non ce l'ha fatta l'italo-tedesco Giulio Ricciarelli nei film stranieri. Ricordiamo che l'Italia non c'era nei film in lingua non inglese perché non era entrata neanche nella shortlist dei 9 nomi, cioè la lista abbreviata con tutti i candidati. A dicembre vengono scremati a 9, già l'Italia purtroppo non c'era più. E poi tra i film per cui tifo tantissimo, non vincerà mai perché vincerà Inside Out, credo, tra i film d'animazione, Anomalisa, che è un film bellissimo che io ho amato tantissimo, però appunto io non ne azzecco una. Saremo a vedere, ci siamo scritti i titoli pronostici e poi vedremo se Marta Cagnola in qualche modo ci ha azzeccato. Grazie Marta. Ciao. A presto, grazie a voi. Buon cinema, noi ci risentiamo alle 22.